Se questa sera volassimo via verso un'altra follia. Se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo. Se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa come amarti e cullarti. Prendimi anima mia, stringimi forte a te, non fermarti, naufraghiamo qui fra le lenzuola ed i tuoi sì. Resta qui insieme a me, non mi volare via, resta qui che è magia. Se questa sera volassimo via, in questa favola, la favola mia, forse tu capiresti perché in questa vita, la vita mia, arrampicarmi sull'armonia è una vita che mi porta via. Ma adesso stringimi forte, dai, non lesinare se non son guai. Intenso, sì. Per chi non prega non c'è pietà, non è una macchia che sbiadi